me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me. Buon pomeriggio da Gio Telesforo, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e oggi vogliamo continuare a raccontarvi la storia di alcuni strumenti musicali. Abbiamo iniziato qualche settimana fa proprio raccontandovi l'invenzione dell'organo Hammond, approfittando della presenza al soundcheck del bravissimo organista italiano Alberto Marsico. Lunedì scorso abbiamo parlato dell'invenzione della tromba, forse uno degli strumenti più antichi, i cui reperti, i primi reperti risalgono proprio all'antico Egitto. La scoperta, l'invenzione della buccina, una lunga tromba di bronzo che veniva utilizzata dalle milizie degli antichi romani proprio per impartire gli ordini agli eserciti. Oggi invece parliamo di uno strumento più recente, la cui invenzione risale proprio al 1841 a opera di un inventore di strumenti musicali chiamato Adolf Sax. Quindi oggi vi parliamo dei sassofoni. Il sassofono è uno strumento musicale aerofono ad ancia semplice e per questo motivo, pur essendo stato costruito in ottone da Adolf Sax, recuperando la forma del clarinetto basso che invece è costruito in legno, utilizzando un'ancia di canna, è inserito nella famiglia dei legni. Dunque, inventato nel 1841, utilizzato subito dalle bande militari francesi, lo strumento approda negli Stati Uniti, dove viene subito utilizzato dalle bande militari americane. Quindi il passaggio alla musica jazz nei primi del Novecento è stato un passaggio quasi naturale. Lo si ritrova nella musica jazz, è quasi lo strumento simbolo di questo genere musicale, utilizzato molto poco nel rock, molto poco nella musica elettronica, ma anche nella musica classica. Le prime partiture di sassofono risalgono al 1922 per delle orchestrazioni dove è presente un assolo di sassofono proprio nelle partiture di Maurice Ravel. Quindi uno strumento recente del quale parliamo oggi, e approfittiamo subito del nostro programma per ascoltare la voce del sax tenore di Lester Young, uno dei grandi protagonisti del jazz di tutti i tempi. Quindi dopo Ben Webster e Coleman Hawkins, il sassofono, il sax tenore si evolve a opera di Lester Young, che qui ascoltiamo in Love Me or Leave Me, un brano cantato molto spesso anche da Billie Holiday, della quale Lester Young è stato innamorato per tutta la vita. Qui nella versione strumentale di questo colosso del jazz per parlarvi del sassofono al soundcheck di Radio 24. Sì, chiudiamo la prima parte di questo appuntamento dedicato ai sassofoni, all'invenzione del sassofono, proprio con il sound che ancora ascoltiamo di Lester Young, uno dei grandi eroi del jazz, in questo brano intitolato Love Me or Leave Me. Restate in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. I don't want to be lonely. Don't let me be lonely tonight. E il sax tenore del compianto Michael Brecker, meraviglioso, qui insieme a James Taylor per questa versione di Don't Let Me Be Lonely Tonight al Soundcheck di Radio 24, in questa puntata nella quale vi stiamo raccontando la storia del sassofono. Pensate che Michael Brecker è stato anche il primo a utilizzare un prototipo di strumento a fiato elettronico, il famoso EWI, inventato da Nile Steiner, che consentiva proprio di sfruttare le peculiarità espressive dello strumento a fiato applicate però a dei suoni sintetici mediante un complesso sistema di sensori. E da Michael Brecker torniamo invece all'inventore del sassofono, il belga Antoine Joseph Sax, che per tutta la vita ha perfezionato gli strumenti a fiato inventando dei dispositivi che servivano proprio a migliorare l'intonazione, il suono e anche la facilità di esecuzione. Nella sua vita ha depositato ben 33 brevetti, ma senz'altro l'invenzione più importante è quella del sassofono, ovvero utilizzare un'ancia di canna all'imboccatura su un corpo di questo strumento che somigliava al clarinetto basso, ma invece di essere costruito in legno era costruito in ottone, quindi raggiungendo anche un grande volume di suono. E proprio per questo motivo fu utilizzato subito dalle bande militari francesi. Che cosa fece il signor Sax per promuovere questo strumento, che venne presentato anche all'esposizione industriale di Parigi del 1844? Dopo aver brevettato lo strumento, riunì due bande militari, una di fronte all'altra, con 20.000 spettatori e una giuria. La prima banda militare, 45 elementi, utilizzava strumenti classici della banda militare di allora, e un'altra banda militare di 38 elementi invece utilizzava i suoi sassofoni. Naturalmente la competizione fu vinta dai sassofoni, e quindi a quel punto il signor Sax diventò anche il primo insegnante di sassofono della storia dello strumento presso il Conservatorio Superiore di Parigi, dove ci rimase fino al 1870, perché ci fu poi la guerra franco-prussiana, chiusero il conservatorio e il povero Adolf Sax di lì a poco si ritrovò squattrinato anche per vicende diverse, e morì proprio in povertà. La sua società, la Adolf Sax, venne assorbita dalla Selmer, che ancora oggi è leader mondiale nella costruzione di questo meraviglioso strumento. E qui al soundcheck, eccolo qui un altro esponente con il suo sax contralto, non un musicista puro di jazz, ma anzi un musicista super funk, avendo militato nella super band di James Brown. Si chiama Maceo Parker, il brano è Rabbits in the Pea Patch al soundcheck di Radio 24. Rabbits in the pea patch, catch 'em, catch 'em, rabbits in the pea patch. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata quella di oggi con la quale vi stiamo raccontando la storia di questa meravigliosa invenzione, il sassofono, a opera di questo inventore belga chiamato Adolf Sax, che di sassofoni allora ne inventò addirittura 14. Oggi invece sono 6 gli strumenti che vengono utilizzati, anche se poi 4 sono quelli più diffusi, ovvero il sax baritono, il sax tenore, il sax contralto e il sax soprano. E per farvi ascoltare il suono bellissimo e caldo del sassofono che utilizza il registro più grave, ovvero il sax baritono, vorrei dare la possibilità a un musicista italiano di far ascoltare il suo talento, ovvero il nostro Alfonso De Ida, che poi i sassofoni li suona tutti, è un polistrumentista meraviglioso, suona di tutto, dal pianoforte al baritono, contralto, tenore, flauto, clarinetto, basso. Musicista dotatissimo che appartiene alla famiglia dei De Ida, fra i migliori musicisti italiani nel mondo. Quindi Alfonso De Ida, che mi ha regalato un anno fa un assolo splendido di sax baritono in una mia composizione intitolata Diamonds, qui al soundcheck di Radio 24. Come on, I'm not too good. chiudiamo questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 con il sound, il suono del sax soprano, che ha avuto meravigliosi interpreti nella storia del jazz, a partire da Sidney Bechet, John Coltrane, Wayne Shorter, Steve Lacy, ma qui ascoltiamo il sound del sax soprano suonato da Joshua Redman dall'ultimo album intitolato Walking Shadow, arrangiamenti di Brad Meldau. Il brano si intitola Infant Eyes, proprio una composizione di Wayne Shorter per Joshua Redman. A tutti voi buona giornata, buon ascolto e buona musica da Giorgetto Lespolo. Check. Il suono della musica.